linea 48 perenne e manda le registrazioni. Ogni tanto mandava quella di Gianni, sempre che la stavano da giorni, però prevalentemente ha mandato tutto il giorno la mia, da stamattina. Figura, tutto più di grossi, non intendo. Avanti, Pierpaolo. Guarda già, quando vedi Massimiliano Bulldozer, chiedigli cosa gli abbiamo detto. Qui mi chiama Massimiliano su 45 e dice, salve, passa su 48, ma li sentite passa su 48? E già gentese, sì, quel bastardo. Te l'abbiamo fatto grovo, Massimiliano incominciava, tua madre ci chiama, tua madre ci chiama. E io avevo pisciato, stavo insultando un bel, non risponde, non parla. Detto, sicuramente c'ha la bocca impegnata, gli dicevo Massimiliano, un pezzo di carri salta va. Gianni, dimmi. Ma quindi la 27 sta diventando più di 45 metri, ma può fare. Vabbè, non lo senti la può fare per lì. No, no, no, se le portate che si fanno, a quello mi riferisco. Quando ci dovete c'è la cosa da registrare, rimandare e poi partire ogni insulti. E qui c'è il passato anche Saverio che ha passato anche gli insulti. Saverio, cerca di essere superiore, altrimenti stai facendo il suo gioco. Marca, pesante. Cioè io l'ho mollato, veramente mi sono stato istigato perché sono passati 9.48 ed è stato inevitabile. Sento la mia voce trasmessa da un'altra stazione, cioè tutto il giorno così. Anzi, cosa ti chiedi proprio il culo? Ma sicuramente io sto pensando la verità, sto pensando che sia uno che magari ha avuto un intervento, cioè queste supposizioni, poi bisogna vedere se è vera. Che magari ha avuto un intervento, ha perso la voce e ci ha solo udito, adesso si diverte a fare queste cose, registra e rimanda le registrazioni, le stazioni che ascolta. Potrebbe essere, perché nulla, non ha risposto, manda la registrazione blu. Secondo me quella gente che rompe le scatole e basta. Potrebbe essere un muto, non sordo, a sentire sente, però è muto. Registra magari col computer e la ritrasmette perché fa veloce. Come molla la portante che si sente il beep, rischiaccia la registrazione dall'inizio. Quindi sto pensando che sia registrata magari con un computer, perché è troppo rapida la cosa di come schiaccia la portante e rimanda velocemente lo stesso pezzo. Guarda, ho sentita poco tempo fa una questione del genere. Me l'ho riferito, questo fa come sempre, non di questa banda però. Ci mettiamo a fare queste cose qua, ci diceva. Oppure registravamo da questa banda qua e lo si metteva un'altra banda. Allora, il discorso che già da un po' di giorni fa, da diversi giorni fa, sentivo questa cosa che era sempre, diceva sempre la stessa cosa. Ascolto bene, e qual era? La voce di quello di Tiri, capito? Era la voce di quello di Tiri. E dicevo, strano, ma cazzo, il segnale più o meno era il suo, capito? E quello lì discorso rimaneva quasi stabile. E dicevo, ma non è che gli chiama suona a Bidu e scende poi il Gabu, cazzo, ripete sempre la stessa cosa. Poi mi sono accorto invece che era propagazione ed è stato registrato dicendo delle cose in inglese e questo lo trasmetteva, rimetteva sempre la sua registrazione e mi sono reso conto poi che non era lui veramente, era propagazione, perché quando manca la propagazione questo non si sente più. Mettiamo quelle micchiate, che volevamo la fetta di anguria fresca? Io. Ok, servita, pronta pronta, bella, né troppo fredda né troppo calda, proprio al punto giusto, proprio a cubetti addirittura. Poi Gianni, con quello che sta facendo oggi, è una cosa indispensabile, devi assumere liquidi per forza, come li assume? Acqua o Energate, Powerade o la semplice anguria che ti rinfra, invece di bere la classica acqua, la schiappa in tazza, dei cubetti di anguria fresca. Mi sta facendo già il fondo per domani di birretta e non sono liquido lo stesso perché domani è il mio compleanno. E signori, io mi saluto, la buonanotte a tutti, grazie, salve io a te, Adriano e tutti quelli che sono ascoltati per portare la nostra buonanotte, ti saluto, ci vediamo tutto domani alle prossime. Buonasera, buona serata, anzi buona nottata e buona giornata per domani, settimana prossima. Ciao Antonio, buon lavoro per domani, buon guarditi, a domani, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte, salve. Salve, sono un po' rinfrescato, guarda su CCS. Quando? Ente, ente gli spagnoli, adesso fu un po' poco. Non ti ho copiato, no, cosa hai detto l'ultimo pezzo? TCS, guarda. E cosa è? Ma canale di Sky? Non male, non male, che ci fai per resto. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, no, sto guardando un programma interessante su National Geographic, su Sky, bello. Oh, io sono a poco fa che dovevo dire una cosa. Avanti. Allora, per il discorso che è tutto della registrazione, Gianni, ti ricordi l'anno scorso in questo periodo che ci aveva detto, non mi ricordo chi, che sentiva le nostre conversazioni a 27.615 se non sbaglio, e c'era qualcuno che ci registrava. Sì, sì, è vero. Però mandava tutta, io ero andato ad ascoltarlo, e mandava tutte le registrazioni di quel show che facevamo noi la notte e lo mandava a 27.615 lo mandava, capito? Quindi non è nuova questa cosa, se noi siamo amati si passona, ma sempre in questo periodo, in propagazione? In questo periodo, non so già, ti ricordi chi è che ci aveva detto? Dice attenzione che il registro mi manda a 27.615, ti ricordi chi era che ci aveva riferito? No, questo no, però mi ricordo particolare. Ascolta, dove risulta 27.615? Eh? Ne metti che è il 48. No, non è il 48, non è 27.615. E più là ancora, infatti ci ho detto attenzione perché mi manda sul canale proibito. Se si è registrato, noi guardate in appunti. Infatti se si ricorda bene Gianni quando entravamo in modulazione dicevamo perché eravamo sul 10 e dicevamo attenzione siamo sulla frequenza 27.075, per il sicuro lo dicevamo un paio di volte, capito? Sì, è vero, è vero. Anche Roberto lo risapeva più di più. Sì, è vero. 615 non è un canale proibito, è allo sguardo, non è sotto nessuna normativa, a parte gli 11 metri senza normativa, usato per i DX, ormai ci usiamo noi per i DX 11 metri. Comunque, occhio che per esempio l'anno scorso li traslavano in VHF, una cosa micidiale, non so che aveva questa cosa abominevole traslava in VHF. Cioè trasmetteva in diretta mentre modulavi ti trasmetteva in VHF. Sì, non era la registrazione, era la traslazione. E come fanno? Non li fa abbattimento? Come fa abbattimento da HF a VHF? Ma cavolo, se c'è un'apparecchiatura a fianco e vai a trasmettere quello che stai ricevendo dalla 27, abbattimento non è facile a 27. Oh signor, mi bisogna citare da qui. Cosa c'entra? Io penso che quando sono due apparecchiature a fianco una all'altra, un po' di cosa ci può essere. Vabbè, magari ti abbassa un po' il segnale, però lo senti sempre. succede, Adria? Va tutto liscio come lui, è come che non ti schiacciano portante? No, praticamente impossibile. No, avevo dei dubbi, non ero, cioè non ero sicuro, però avevo dei dubbi che magari con l'arma di a fianco si potesse... No, il problema è questo paragnotta che andava la 27 in VHF, che rompeva le scarpe. Adria, l'anno scorso però non era diretta, era proprio la registrazione, si sentiva ciò che dicevamo noi, lo trasmetteva la mattina questo qua. Ma questo non posso dire, perché l'anno scorso la 27 non la stavo frequentando, però sentivo i VHS a traslazione. Andavo a una semplice spatolata in 27, vedevo che era proprio la traslazione, non la registrazione. Traslazione vuol dire in tempo reale, praticamente semplicemente mette il microfono su un VHS. In questo caso schiacciare il microfono del VHS per mettere una ricezione, una trasmissione del 27, non so a cosa serviva. Che c'erano modulando in quel momento sul 48, poi quando spariva la propagazione non si sentiva più, cioè sentiva diminuendo di segnale come gli altri e poi spariva e dopo ha ripreso verso le 4 di sera, boh. Il finale del mio passaggio, no? Ah, territorio sardo, guarda. c'ho il NIP? No. Territorio sardo. Territorio sardo. Territorio sardo. Territorio sardo. Così all'infinito. Secondo me è sano. No, sono solo esclusivamente sul 48. Anche le altre volte che era con altre registrazioni l'ho sentito solo esclusivamente nel 48. Perché ne avevo anche altre? Sì. Allora io già da giorni, da molti giorni stavo sentendo la registrazione di coso. Allora, una di un camionista cagliaritano, perché c'era la voce cagliaritana, e l'altra era di Gianni di Itiri e stava parlando in inglese. Adriano, cosa siete trasmettendo? Vedi che non faccio battimento con la KF. Niente, un bollettino metto marino. Cappa, dai. Andava. Sì, quella di quello di Itti e poi di un camionista che diceva guarda questa stazione, minchia forte, una cosa del genere, una frase strana comunque parlando in cagliaritano, ma che se stazione c'è questo, cose del genere, e la rimandava all'infinito, quella di Gianni, aveva pure la mia. Ma è gente messa male, da. Gente messa male. Adesso purtroppo lo sta mandando in inglese. Io di solito l'ascoltavo quando andavo a pescare, che si diceva, anche se la persona in inglese e poi era in italiano. Ultimamente è marino, se per loro non si va a pescare. Capo, ma è una cosa collegata all'antenna oppure è un portatile? È un normalissimo ricevitore, quello che noi usiamo noi SVL. Collegato a un'antenna, dai, non è con l'antenna autonoma, non è un portatile. Vorrei vedere, come deve essere collegato a un'antenna? Sembra che tu un prendi su spagnolo, forte di brutto. Non so quando sale di segnale, a voi quanto vi arriva. No, il segnale era una merdaccia, perché è 5, è la radio che sta sbarrando alla grande. La radio è fortissima, il segnale a volte arriva a punti di 9. Adesso era 5, sì. Trasmesso in due bande e per esempio esempio prendo la palla quella lì VHF, schiaccio la portante sulla 27 e si va direttamente sulla 27. E a che serve? Il transponder, ma cosa ti serve se tu fai questo magnete? Però se non va niente no, è fatto così proprio l'apparecchio, passa la, da una comunicazione all'altra, vuole qualsiasi banda che lo metti e passa, te la trasmetto sulla 27, adesso è staccato, non l'ho attaccato, ma stato faccio vedere che io lo parlo, cioè guardando su un qualsiasi altro canale e te lo trasmetto qua nella 27 direttamente, non senti neanche la differenza di fuggio o niente. Stavo dicendo, Saverio stava dicendo poco fa che non capivo come mai non c'è l'abbattimento durante la trasmissione da HS a VHS, però capito, mi sono frequenze un bel po' lontane, posso pensare ormai le ripetitori VHS che hanno uno chip di 600 kHz, mica di megahertz, eppure funzionano. Saverio ascolta e impara. Ecco, infatti ho chiesto a titolo di informazione perché io non ho mai avuto un VHF, quindi non ho provato con mano. Sì, che problema di propagazione bestiale. Purtroppo è mezzanotte, però è domani sabato. Aspetta, io uno dei 3DX me li faccio, anche io se sei qua in zona già ti seguo. Vi lascio un secondino, faccio una spazzolata nella banda alta, continuate voi, vedo se ne vale la pena. Guarda un po', sappi che se a te ti arriva a 7 a me ne arriva 9-10. C'è abbastanza ricezione. Vabbè, ma domani sicuramente se c'è propagazione si sente, la matta che viene scende tutta la santa lì e cade. Che tipo. No, perché se sapendo che si registra a me, gli dico una parola, così la matta la tutta la sera lì. Capo. È una gara. Però penso che se le scelga boh le registrazioni, perché la radio si sente proprio forte. A meno che visto come ti smette la propagazione, smette di trasmettere pure, ma è oscillante anche lui, il segnale è proprio quello effetto propagazione, perché a volte proprio cala e poi torna. Però rimane abbastanza costante, cazzo, c'è una buona stazione. Diciamo che in propagazione tutti i segnali arrivano forte. Seguono anche arrivo 9-10, arriva anche 9-10 là, e propagazione non cambia. Vedo gusto, vabbè, la roba, adesso che vede nel suo programma su Sky, micidiale, Oh, uomini, io faccio questo greca sulla internazionale chiamata, ci sentiamo le prossime, buona serata e buon proseguimento, una mezz'oretta di ex che la faccio. E noi veniamo ad ascoltarti, aiuto per qua. Ciao Pierpaolo, allora ci ascoltiamo domani, là. Buon lavoro per domani, buon corretti, a domani ci coincide, ciao ciao. Ciao Pierpaolo, sentiamo la prossima, ciao, questa è la carta per me.